sì, semplicemente insieme. Eccomi qua anche oggi, lunedì 21 maggio. Naturalmente siete rigorosamente in diretta su CRMP Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, appunto in compagnia di Jerry. Starò con voi sino alle 17, sempre con tanta buona musica, tante notizie e quant'altro. Visto che già sono un po', siamo in ritardo, direi di cominciare e partire subito. Allora, che dite, cominciamo? Sì, giusto, giusto, cominciamo con arriva lei, Alessandra Moroso, tra l'altro vincitrice dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. È una questione di impazienza momentanea, se non so stare bene dove sono. Bastasse solamente un gesto, un tuo segnale, per ritornare lisci come l'olio. E invece sembra facile da dire poi, è un mese che non so nemmeno come stai. Siamo nella stessa stanza, c'è distanza. Potrei abbracciarti per spaccare questo muro e costruire ancora quel futuro. Di notti insonni fatti al lume di candela, e tu che vuoi imparare a cucinare. E invece resto ferma con le mani in mano a domandarmi con la testa dove sei. Siamo nella stessa stanza e c'è distanza. Dove sono i colori, le parole che respiri dentro le canzoni? Dove sono i segreti, quelli belli che ti fanno solo immaginare? Non ci sei dietro l'angolo di casa ad aspettarmi fuori dal portone e parlare di tutto fino all'alba per poi fare colazione. Dove sono i colori, quei sorrisi accesi dalle nostre tentazioni? Dove sono gli errori, eravamo dentro invece adesso siamo fuori? A vergogna di vivere, volare, precipitare, a sentire tu. Una questione di mancanza temporanea, se non so proprio bene cosa voglio. Bastasse solamente un bacio, una carezza, per ritornare uguali come eravamo. Invece sembra mai difficile da fare, e poi fa freddo, io non so nemmeno se mi vuoi più. Siamo nella stessa stanza e c'è distanza. Dove sono i colori, le parole che respiri ti fanno solo immaginare? Non ci sei dietro l'angolo di casa ad aspettarmi fuori dal portone e parlare di tutto fino all'alba per poi fare colazione. Dove sono i colori, quei sorrisi accesi dalle nostre tentazioni? Dove sono gli errori, eravamo dentro invece adesso siamo fuori? A vergogna di vivere, sì, è stata proprio lei, Alessandra Moroso, a vincere l'ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, battendo Emma al televoto con il 52% delle preferenze. Poi ancora, che tra l'altro si è concluso sabato, terzo Marco Carta e quarta Annalisa, che con Carlo dei Giovani ha vinto il premio della critica. Alessandra vince un concerto all'Arena di Verona e dividerà il palco con l'altra grande artista, Emma Marrone. E inoltre a giugno andrà a New York per 2 mesi, dove appunto andrà a studiare. Sono stati inoltre assegnati 3 contratti discografici a Gerardo, che tra l'altro ha vinto la sezione, la categoria dei giovani, poi ad Ottavio e da Carlo. Bene, finalmente si è conclusa questa maratona di Amici, che quest'anno devo dire è stata anche un po' particolare, si sono un po' mischiati i giovani con i grandi big. Bene, noi continuiamo con la bella musica, allora che dite, andiamo avanti? Sì, andiamo avanti.

amarmi. Eccomi ancora qui con voi fino alle 17. Adesso facciamo un passo un po' indietro. Andiamo negli anni 70, nei mitici anni 70, e arrivano loro, i Bee Gees, che tra l'altro ho una notizia riguardante proprio questo gruppo. Con Night Fever. A proposito di questo straordinario gruppo degli anni 60, ahimè è morto all'età di 62 anni Robin Gibb, uno dei cantanti fondatori del gruppo, appunto, dei Bee Gees. Da tempo stava combattendo contro un male. Barry, Robin e Morris, i Bee Gees, sono stati icone della musica pop negli anni 70, con pezzi come How Deep Is Your Love, Stayin' Alive e Night Fever che abbiamo appena ascoltato, le note che hanno fatto quindi da colonna sonora al famosissimo film La Febbre del Sabato Sera con il grande John Travolta. Il gruppo ha raggiunto un record di oltre 200 milioni di dischi fin dalla loro fondazione appunto negli anni 60. Gibb era stato operato tra l'altro per un tumore al colon un anno e mezzo fa, ma quando i medici gli avevano anche diagnosticato un cancro all'intestino e al fegato. Tornato poi in pubblico a febbraio aveva detto di essere in miglioramento, ma ahimè poi diciamo il suo stato di salute è andato via via peggiorando fino a, appunto ad arrivare quindi al decesso, ecco, quindi ci ha lasciato questo grande artista di questo fantastico gruppo appunto dei Bee Gees. Comunque la loro musica ci terrà sempre, sarà sempre viva comunque, perché straordinaria, veramente straordinaria. E noi ancora continuiamo e andiamo avanti. Vi ricordo che siete sempre in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Adesso arriva lui, Caparezza. Legalize. Non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere il flash,

lost, I am vain. I will never be the same without you. E su questa canzone saluto Vittorio che ce l'ha richiesta sempre qui al 335-5637-251. Mi raccomando, fatela anche voi, fatevi sentire. Io sarò con voi fino alle 17, sempre a tenervi compagnia con tanta bella musica. E allora continuiamo, arriva lei, Emma. Mostrami i segni delle tue ferite. Cercava amore, beh, speriamo che lo cerchi, lo trovi subito, visto la sua brutta esperienza con il suo ex Stefano, che l'ha tradita in diretta, diciamo, con Belen Rodriguez. Parliamo di trucco. E diciamo che di solito si sa, no, prima di andare a letto bisogna struccarsi un po' per comodità, per sentirsi più puliti, diciamo che è proprio un'esigenza medica. Però una ragazza del Corea, credo, sì, oggi 21enne, aveva da tempo una vera e propria mania per il trucco, fino a che praticamente non è arrivata al punto di tenerlo addosso continuamente anche di notte, cosa che assolutissimamente non si fa. Un po' perché voleva essere perfetta in qualunque momento, un po' anche forse per risparmiare una parte delle diverse decine di minuti che impiegava ogni mattina per applicarsi appunto il pesante trucco. La madre ha cercato di fare di tutto per cercare di convincerla, insomma, a togliere questo trucco, ma senza successo. Alla fine la donna, quindi la mamma disperata, diciamo, ha tentato la strada del reality show, iscrivendo la figlia ad un programma televisivo. Il programma ha accettato quindi di raccontare la storia di questa ragazza ad un gruppo di psicologi e di dermatologi. L'hanno convinta a rimuovere in diretta TV i diversi strati proprio di trucco che aveva addosso ormai da 2 anni.

canzone saluto la nostra amica Federica che ce l'ha richiesto. A proposito di Adele, ha trionfato a Las Vegas ai Billboard Awards, pensate, si è portata a casa ben 12 riconoscimenti. La cantante inglese però non ha partecipato alla cerimonia, che ha visto tante star esibirsi, da Nelly Furtado a Justin Bieber, passando per Usher e John Legend. Inoltre c'è stato un grande omaggio alla grandissima artista che è da poco scomparsa, Whitney Houston, e a renderle omaggio c'è stato naturalmente John Legend, Georgian Spark, Whoopi Goldberg e la figlia di Whitney Houston, Christina. Bene, una bella iniziativa, un bello spettacolo da vedere. E noi cosa facciamo? Beh, noi andiamo avanti, continuiamo. Vi ricordo ancora i numeri per le vostre richieste: il 335-5637-251 e ancora lo 0921-923292. E ancora potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmepiradio.it.

che si astengono da questa bevanda, mentre per le donne il rischio è ridotto del 16%. Beh, che cosa ci sia dentro all'effetto a lunga vita del caffè? Beh, i ricercatori ancora giustamente sono un po' cauti, però praticamente il caffè ha la capacità di difendere quindi la salute del fegato e di costituire una sorta di scudo dal diabete. Il caffè inoltre contiene sostanze, secondo questo studio, quindi benefiche per la salute generale dell'organismo, anche se non si sa esattamente quali siano. Nella tazzina si nascondono oltre 1000 sostanze diverse che andrebbero testate singolarmente per poi verificarne i potenziali effetti sull'aspettativa di vita. Beh, nell'attesa che la scienza comunque faccia chiarezza, faccia il suo corso, non ci resta che goderci una bella tazza di caffè espresso in santa pace. Beh, io sono qui, aspetto voi, vediamo se c'è qualcuno all'ascolto gentile che mi viene a portare una bella tazzona di caffè. Sì, diciamo che ne ho proprio bisogno. Ma io aspetto, vediamo chi arriva. This is that original, this has no identical. You can't hack my digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical, will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I've won. Now, baby, don't you stop it, stop it. Now, baby, don't you stop it, stop it. You couldn't stop us medicine. You won't find me settling, can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end, yeah, that's why there we go again. I'm that one that lights it up, we red hot like fire trucks. Burn that roof cause that's what's up, tell that DJ turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Stop it, stop it, stop it, stop it. You was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Quindi adesso è su questa canzone, tra l'altro saluto il mio carissimo amico Gaetano che come sempre mi ascolta. Ciao Gaetano, un bacione grande. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di CRMP Radio e noi naturalmente ci rivediamo, anzi ci risentiamo mercoledì sempre a partire dalle 15, sempre salvo imprevisti come dico sempre. Buona serata, mi raccomando, fate i bravi. Ciao ciao. Semplicemente.